Isola delle Canarie, sua sentizio, ce la siamo in Italia. Attento mio hermano delle Canarie, se va a Luciana Sardinia, la città del Sassari che va chiamando. L'ho sentito! Mai non lo sento! Non lo scuccio! Muccio QRF! Io l'ho sentito poco fa quello delle Canarie, poi non l'ho più sentito. Vai, vieni! Tu la ascolti bene? Non la doccia non più! Manco io, là. Se entra la propagazione già chiamano loro, quindi una volta c'è, sai, c'è più problema, mi comincia la propagazione, e si da tutta l'estate c'è. Eppure io mi ricordo di te, sì. Ti ricordi di me? Sì, forse sì. Tu c'hai una sorella che abitava lì dove c'è la ficcioria al gruppo. E mico capito. E io allora già ti... la voglia che ti conosco. Ma si vede a la moglie di Marco Massa. Sì, caspita, una vita lavorando in giro. Io 38 anni sono stato lì. Quanti? 38. Caspita, ma sei sempre con quella società, eh? Sì, ho lavorato con qualche donato, ma roba da poco, là. Ho lavorato alla Temi, la scuola europea, la Temi internazionale, e c'era uno di Porto Torsi che lavorava, ma ci manca, il signor Manca, che si è morto, la mica passatina. E poi, niente, ho fatto, ho lavorato come assicuratore, ma roba che mi sono stufato subito perché davano solo un incentivo, ma molto basso, non mi convinto, è un buon anno. Vabbè, comunque lì, la maggior parte della mia vita lavorativa l'ho fatta lì. Ti vedevo sempre con quel camioncino. Sono andato in pensione anche... come si chiamava, signor Giuseppe? Ehi, a Giuseppe Mara, c'è mio collega. È stato un periodo a Trentino lì, alle casse lì, e poi se n'è andato. Ah, Giuseppe Pulina sta dicendo, perché anche Giuseppe Mara se... Giuseppe Pulina, sei dicendo. Faccio come responsabile anche, eh? Sì, Giuseppe Pulina. Alto, con i capelli bricolati. Sì, è lui. Allenatore di pallone, da pagato. Sì, Giuseppe è stato il primo che ha dato pensione, di sapete che fare. Il primo, però, che Giuseppe Mandra, sì, sono andato io. Ci mette allucinante, infatti. 10 metri anche in 11 è la stessa cosa. Poco fa ho sentito a Gianni le Canarie. I Canarie arrivano a 9:30, qua sono di fronte, io sono molto aperto, Canarie, tutte quelle zone lì a Spagna, minchia, arrivano fortissimi, 10 metri non si può parlare, proprio le Canarie arrivano a fondo scala. Ma questi devono essere brasiliani? Sono brasiliani. Cosa? Non sono brasiliani. E cosa sono allora? Portogallo. Comunque lontanata non sa, dai, perché ha provato un franco, da satellite, ascolto sì, ma non faccio mentre Marco invece fa proprio attività satellitare, capito? Io non devo mettere altri antenne, altre cose, una rottura di base, no? Voglio mettere niente, oggi ho fatto un culo, no? Ti dico, tagliato tutta l'erba fuori dalla recinzione della casa, mi sono tolto 4 metri di apertura, ho fatto giro in giro la casa da stamattina alle 9 e ho terminato, sono aperto l'ora di pranzo, tanto l'avevo già raggiato, quindi sto già preparando tutta la pulizia eterna, altro che satellite, al villaggio satellite posso andare io. E un bel c'è erba, un bel, di tutte le taglie. Ma di te, ci ha preso anche più conigli, la presa più conigli, la presa più conigli, la presa più conigli. No, io non lavoro ai conigli, ma lavoro ai cavalli, perché all'ingresso del mio cancello, della strada, tutto all'ingresso della nostra strada privata, c'è una casa che non è terminata, non è infatti abbandonata. Terminata e c'è il recinto per i cavalli e io domani mattina sono messo a tutti i sacchi, domani mattina presto vado e glielo metto dentro la recinzione, ci vado in a poco perché è erba proprio fresca di quella bella alta. E gliela mangiano i cavalli, poi se non è medicata, medicata, si gira la mia casa, la mia medicata, l'erba che è cresciuta durante l'inverno, capito, con le piogge, ma è erba fresca. No, avevo tutto, in estate scendo, mangio la buccia d'anguria, del melone, la mela, la prende anche dalla mano, figurati, dal palmo della mano, gli arrivi di punta, la prende lui dal palmo della mano, sono bellissimi i cavalli, poi ne ha due piccolini, adesso due puledri, va bene, va bene. E quindi sono stanco morto, non ho avuto bioci, adesso mi fa un po', allora vado in cucina e un giorno sono già preparato stanotte per mettere cacio e pepe. Ottimo, avevo una voglia, ma mi sono messo e ho assaggiato una crema, non mi sono esagerato col pepe, ma comunque già ti parlavo a te, poi mia figlia ha portato una bottiglia di vino rosso al bar, quindi ci vuole. Comunque Claudio, fammi il favore, ringrazia KB e quella sera ha detto per le SQL ci sono tra un po', c'è il satellite eccetera, e grazie a lui che lo sento, perché non lo sapevo, su quella frequenza non lo sapevo, li ho sentiti anche oggi e ringrazio da parte mia. Che frequenza è il satellite? Però se c'è l'antenna esterna o già Claudio c'è l'antenna esterna, tu l'antenna esterna non ne hai, c'hai portati le luci. C'è un pochino. E allora beh, sono faccio l'antenna esterna almeno. Sì, c'è altro, dopo tanto vedo che la lancetta che si muove in voi non c'è il volume basso, però l'ho abbassato perché io faccio una cosa o faccio l'altra. Poi lo ringrazio, le mando i tuoi saluti, noi salutiamo sempre tutti gli esseri UPL perché è giusto che sia così, sono persone appassionate alla radio che non hanno la licenza e quindi ascoltano, doverosamente bisogna salutare. Va bene, sapete già, vi dico, sono già le 8 però, io adesso mi sposto in cucina e inizio a organizzarmi, dai. Non sono anche 10 metri, ma c'è un pailappo allucinante, non ho voglia di mettermi in mezzo a rompermi le scarpe. Mi ritiro per liberare in cucina, che forse è meglio. Dai, un abbraccio, ciao Claudio, ciao Gianni e ciao a tutti quelli che sono ascolto. Bye bye. Ciao, abbracciamo la carica, la avanti. Vado anch'io che mia moglie mi ha chiamato, che è pronto. Ci sentiamo alle prossime, Claudio, ciao. Ciao Gianni, ci sentiamo magari più tardi o domani. È così. Comunque mi sono ricordato già, ti conosco, a voglia che ti conosco. Vabbè, tanti anni che sono andato, tanto, mi hai visto. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, buonasera. A parte chi chiama Claudio? Chi sei? Ti sento bassissimo, è Santiago Quattro, chi sei? A parte si è chiamato Claudio. Hola. Hermano, ¿cómo sabes si va escuchando la Italia? facendo una schifo. Ciao! Ma non lo prova! Guarda un po', 4-4-5. No, non mi piace molto gli scendi. Mette the bird, clear. Ah, guarda il microfono. Chiami l'FM. Che cazzo è successo a questa radio? Aspetta, guarda la cipolla, guarda ancora adesso. No, non mi piace molto di scena, cioè parla. Guarda, una, due, tre, una peppina fa il caffè. Boh, io non ti ascolto bene. Guarda con questo, meglio è. Prova. Guarda un po', una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Oh, sembri fuori frequenza, cosa ne so, non lo so. Aspetta, aspetta, vaffanculo, ecco. Sembri fuori frequenza, Daniele. E adesso? No, lo stai facendo male. Guarda, adesso. No, lo stai facendo male. E così, guarda, ti ha passato la potenza. No, lo stai facendo male. E così? No, non mi piace Daniele, non sei tu. Che c'è qualche sintomo per fare radio, poi c'è qualche problema qua. Dai, sembra che sta a posto. Aspetta. Guarda con questo, Lu. Adesso sì, c'è perfetto. Quello era il 3009. 3009? Sì. Non c'è il 2001 tu, con la modificato. No, c'ho l'87 modificato e vabbè, superstar che non è superstar. Cos'è il Pluto? Cos'è? No, ho capito, capito. No, lui esce male, malissimo. Sto usando tutta la sera e sto andando bene lui. A me non piace, boh, se qualcuno all'ascolto ti può riferire, a me non piaceva come uscire. Boh, forse come ero, stavo pompando forte lui magari. Boh, mi sta soltando un popolino, altro che stava facendo la commissione. E niente. Aspetta. Capagliato. Capagliato. Vabbè, lui, dai, che vado a preparare la cena. Ci ascoltiamo dopo se ci siete. Via, a dopo. Ciao Dani, buona cena anche a te. Ciao. Cava, dai, dare il pronto acceso qua. Ciao, ciao. Cava di positivo, cava prate, ciao, ciao. Alicate. Che vuelta, che volero. Had this noise before. Oh, it's the, what you call the beaters. I took to the guy that has all that orchestra in the background. So the guy that comes out loud, I talk to him almost every other day. Oh. largo, no muy largo, porque yo he visto los grandes, son mucho más largos. Este cortico no llega un pie. Ok, cuando salga yo le voy a preguntar, no sé qué cosa es. Sí. Questo non è un 6, è molto chiquito ma sono un 6. Cazzo, ma neanche stanno arrivando questi. Lo brucio esci bene, ma la radio non è bella, boh. E adesso? Oh, va. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Non esci male, però c'è qualcosa che non va. Sembri spostato di frequenza. Aspetta, vediamo un po' se riesci a centrarti. Fai un passaggio più lungo, vai. Guarda, ora la cipolla. 1, 2, 3, 4 e 5. Brecco, brecco. Quello che è caro. Il globo. Brecco, brecco, 4 e 5. Si è spostato di frequenza. E di quanto lungo? Vabbè, di quanto non lo so. Te lo dovrà dire qualcuno che ha un K. Fatti un passaggio tu con il tuo, vedi un po' se ci riesci. E ti ascolti. Non c'è neanche cuffiette per ascoltarmi. Eppure qua c'è il frequenzimetro, mi sono 27.075, spaccatevi. Qua c'è il fine corsa spostato, controlla bene, si è centrato bene. Guarda, adesso c'ho il fine... come cavolo si chiama, il cordone, il fine è tutto a posto. Boh, se mi sposto sulla destra, ma fine corsa, cioè sulla sinistra ti sento bene, riprovo. Sulla sinistra con fine corsa. Guarda un po', ora, 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa da fè. Ora. Sì, ti ascolto bene così, Daniele. Ti ascolto benissimo. Col fine corsa spostato. È strano, cara. Eppure qua sono giusto, a 0,75. Posso, non saprei. Cavagliare, si sono messe in moto le ventoline qua. Era ora. E va bene. Aspetta Luca, che provo a attaccare l'87 a vedere. Via, vai. Hola, atento mi hermano, vamos a ver si va escuchando la Italia que va llamando, adelante. Atento mi hermano, vamos a ver si va escuchando la Italia, adelante. Oye, espera un momentico, oye Pepe, yo creo que el tipo tiene la pregunta bien válida. Luca, guarda questo. Vedi, questo va benissimo. Sancho da qualche 5 per quello. Non lo so. Questo è l'87. Cavaliere, però stava andando bene tutta la sera perché ero con Carlo, con Antonio e coso. E... c'era anche Claudio. E boh, non mi ha detto niente. Non so cosa ti dica, boh, così ti ascolto, non lo so. Tu bene mi ascolti? Sì, niente da dire. Mi sta pure fischiando questo. Non lo so, Lu. Non lo saccio. Beh, qua non stanno dritte questo è il vento adesso. Minchia, ma tu le senti le ventoline, Lu? Adesso no. E l'importante è quello, dai. Perché c'ho questo alimentatore che... poverino, stava soffrendo, se andava in protezione. Non mai successo. Da qualche giorno se ne va in protezione e... come si dice? E lì faceva il blackout. Addirittura blackout. Sì, non accendeva più il drone perché sono attaccato adesso. Capito, guarda adesso. Ora. La radio è sempre buona. Sì, la voglia. Sta arrivando un bel forte questo, Cosa? Sta arrivando un bel forte. Beh, c'è il drone attaccato, sta volando in alto adesso. Capito. I motori qua sono tutti a massima potenza. Vieni qua. Ma lo sto dicendo a te, quello là arriva un bel forte, ho detto. A voglia, ammazzelli, sta arrivando più forte di te. Dico, io sono agganciato, Pagola. Sembra una questione locale questo, sembra un po' dietro l'angolo. Dietro hermano, escucha quando Sardegna mi chiama. Quanti ne hai, Daniele? 70, 60. Thank you. Antoine 10, K? Anzi, Antoine. Ehi, ciao! Buonasera. Ero un'antenna piccola poco fa. Adesso è collegato la grande, ma sei a casa, Antoine? K, sono a casa, ho collegato la grande. E stasera c'era un bel po' di casotto, ho visto, di propagazione, se ne sentivano di tutti i colori. Ma mica tanto, mica tanto, già li ho sentiti pure io da su. Lì, dischi chi ha forte, è che non posso attaccare nulla, perché se non si può fare. Sino guai. Aspetta che c'è qualcuno che è entrato, avanti. Oh, sono rientrato tu. Capo, ciao io e me. Andiamo, andiamo. Ciao Carlo. Ciao Luca. C'è un bel programma, non lo volevo guardare. Beh, ma tu, le pupe del secchione, mi sono certe ragazze, guarda, sono la fine del mondo, ci credi? Sono la fine del mondo. Mi non fa, lo smanetta troppo, mi. Secondo te non c'è bisogno. Sto scherzando. Non ne guardo di quella roba perché mi sale la pressione. Su cui sei là quanto ha toccato a te, tocca. Sei giovine. Ma mi sa che forse non ho staccato un tasto, poi via. Mi sa di sì. Certo. Ho aspirato a polvere stamattina. Stavo poi alla tastiera del computer. Adesso solo stava... Lo stava ciuffando. Sì. Che rega ciuffende? Manda. Sì, dimmi qua. Cosa c'hai, l'SX100? Il rosmetro? No, 200 io. Ti ho mandato la foto. È giusto, perché non me ne ricordavo. Io mi sono preso l'SX100. C'ha un pulsante blu dove c'è scritto AVG. A cosa serve? AVG? AVG... Allora, una VG è che ti dà i picchi di modulazione, l'altro era, insomma, cioè, vabbè anche il mio, adesso non mi ricordo esattamente, comunque serve per darti i picchi di modulazione, lo vedi, no? Non è un raccontatore, no? No, no. Comunque, se hai dei dubbi vai su internet e ti dice tutto, No, è mandronia la mia, già c'ho anche le istruzioni, solo che le ho messe via, no, non mi ricordo, adesso devo frugare dentro, forse sono nel tavolo, nel salone, le ho lasciate. Già lo guardo, dai, ho detto, esci, faccio prima a chiedere. Cioè, AVG e l'altro qua era? Forse non mi ricordo. Vabbè, ci sono, c'è la levetta che va da 30 a 300 a 3 kW, poi c'è potenza, calibrazione, SVR e poi l'altra levetta che fa RF, VD e OFF, poi c'è la manopolina per la calibrazione e poi c'è un tasto blu dove c'è scritto AVG. Ah, forse PEP e AVG, c'è PEP anche. Esatto, sopra c'è AVG, sotto c'è PEP Moni. Sì, ho capito, sì, te l'ho detto. Se lo metti in AVG ti dai i picchi di modulazione, se lo metti in PEP è normale, no? Capito. Ah, ok, ho capito. Oh, non ti vorrei dire una fesseria, a me non l'ho spiegato così, poi boh. Sì, perché adesso lo stavo provando. Quanto costa quello? Allora, io l'ho preso su eBay usato, perché nuovo tra spese di spedizione e tutto supera i 100. Io con 63 euro ho preso tutto, compreso le spese di spedizione. Come nuovo mi hanno mandato la scatola originale, l'imballo in polistirolo, tutto quanto. Le istruzioni però me le hanno mandate in inglese, ma le ho scaricate, le ho trovate anche su internet in italiano, per cui le ho anche in italiano, ma le ho lasciate dentro nel salone dove c'ho il computer e quindi dopo le vado a prendere. E così impari, bello bene. Ciao Pompù, ho capito, va bene, anch'io va. Il mio massimo 200 watt, va, avanti Pompù. figlia, buonasera a tutti. Antonello. E beh, come va? Stavo dicendo a Luca che ho preso questo SX100, no? Che te l'ho accennato anche a te, e l'ho collegato già, funziona perfettamente, perché lo dovevo provare in quanto essendo usato, ho detto non si sa mai, praticamente è come nuovo. Dopo ti mando le foto, Antonella. E io vabbè, ok, non c'è problema, quando vuoi. E cosa usando lo stai con l'apparecchio? Diciamo che non ho avuto tempo perché stamattina ero al lavoro e sono arrivato a casa che erano le due e un quarto, tra mangiare tutto, poi dopo pranzo me ne sono andato a riposare sino alle 4:30, poi mi sono messo a provare questo nuovo orosmetro e qualche chiacchiera con chi c'era, e tra una cosa e l'altra si è fatta l'ora di cena, non ho avuto tempo, capito? Però già domani, che ho il giorno libero, penso di provarlo il tuo. Comunque è uguale al mio, solo che il tuo fa più frequenze e poi mi confermi se ha solo due attacchi dietro, ne ha quattro, che l'altro sempre il VEU. È uguale al mio, uguale identico, non c'è da... Ripeto, il mio fa 5, 10, 200, il tuo fa 5, 300, 3 kW, giusto? Luca, adesso ti mando una foto. Comunque è uguale al mio, dai, avanti un po'. Quello lì fa da 1,6 a 60 MHz, fa 303 kW. Costa 98, nuovo, 98 più 8, 106 euro. Yes, una luna costa 40. Gira gira quanti temi, 1000 adesso. Però funziona benissimo, adesso adesso c'è 200, vediamo quanto costa 200. Vediamo se c'è SX 200, guarda, quanto costa più il mio? No, 100 euro costa il mio. Guarda, così piace quello che ho preso. Guarda, nei suoi bei costa un sacco di vino. Sono a caso di atto del 39, che usa quello, almeno si ripete con le bande laterali, un po' lo fa funzionare, perché io sto usando questo e quindi l'altro è sempre fermo. Allora gli ho dato l'MB+4, gli ho prezzato e gli ho dato il 39, almeno si ripete un po' in banda laterale e se ne va ai canali alti tranquillo, faccio un paio di DX. Carlo, però ho notato che non è centrato, se tu guardi bene dove c'è l'1, non è centrata la freccia, per regolare quello devi andare, aspetta, devi andare dove c'è scritto metter, vedi, adjust, lì c'è una vittina, tu lo devi centrare bene, secondo te l'avranno toccato, perlomeno in foto vedo così, non è centrato bene. Sì, è leggermente più giù, quindi lì lo devo regolare bene. Piano piano, poco a poco te lo metti a posto, sì. E ok, dopo mi cerco un cacciavettino piccolo piccolo e lo centro bene allora. Gappa gappa. Eia. Ecco qua. Abbiamo praticamente lo stesso amplificatore. Praticamente anche il rosmetro wattmetro uguale, so che il tuo fa il 3 kW, ma io non me ne faccio niente. Un attimo che vado a cenare, ci andiamo fra un po', là tempo 10 minuti in quanto fa fra poco, vi pigliate voi due. Avanti Antonio. Capo, ciao a te, ce la risentiamo. Questo, allora, rosmetro SX20, rosmetro wattmetro da 1, da 1800 a 200 MHz, da 0,5, da 5 watt a 300 watt, aghi incrociati, costa 58 euro più 9, sono 67 euro, bellino, Già l'ho visto anche quello, ma preferivo questo perché hai visto come l'ho piazzato sopra la radio e ci sta perfettamente, capito? Eia. Comunque il mio costicchia ancora, io l'avevo pagato No, poi c'ho anche la scatola, il cavettino. Tra l'altro ti ha mandato il cavettino con anche la lampadina, Chi ha il cavetto dietro, però non l'ho collegato, e pare che quello serva per illuminarlo, se non sbaglio, vero Luca? E si conferma. Ah, te l'ha mandato. Comunque no, graffine A o il nuovo. Qua sembra uscito dalla fabbrica, è lucido, capito? Non ha nessun graffio né sotto né sopra, è perfetto. Forse quella centratura che mi hai detto tu devo fare col cacciavitino. Lui mi aveva scritto che praticamente l'ha usato un paio di volte e poi messo via. E l'hai fatto l'affare, se è nuovo come dice fatto l'affare. Ascolta a me, ma ha due ingressi solo dietro, giusto? Antenna e uscita? Sì, esatto, due ingressi solo, non è a quattro, è solo due ingressi. E poi c'è l'uscita per l'alimentazione, per diciamo l'illuminazione, basta. Sì, sì, per illuminare la lampadina, sì, confermo. Sì, io avevo praticamente modificato uno, l'avevo agganciato a un tastino di quelli che alla fine non è che uso, per spegnerlo e accenderlo, capito? Ma quello si può anche fare. Io ho Antonio, fai tu sì. No, già sono qua già. Ho anche tutto sopra i pizzi stasera. Stanco, ma stanco però. Se sei stanco va a riposare Antonio. Zappa. Via. Oh cazzo, non so cosa ammalaggio ci va giù. Sono a pezzi stasera. Io mi stavo guardando la partita su Rai 1, c'è Turchia-Italia amichevole, stava perdendo l'Italia e prima di finire il primo tempo, prima pareggiato e poi passato in vantaggio. Ah, vero, ma quello è l'Under 21. Ho la nazionale maggiore, amichevole. Ma io non capisco, ma non eravamo fuori dal mondiale. La Turchia è stata eliminata dal Portogallo. Beh, non viene ripescata l'Italia, o ce la piglia in culo. Si sa ancora, c'è una possibilità che possa essere ripescata, ma ancora non si sa niente di certo. No, ma il Kugis allenatore proprio, mamma mia, è un aino, Ha avuto fortuna che ha vinto l'Europeo, però hai visto con la nazionale Antu ha fatto cilecca, si doveva qualificare dall'altra partita e non si è qualificato, ha pareggiato e poi è andato a perdere all'ultimo minuto con una squadretta di Ciappini. Ma è proprio un asinello, visto che secondo me non è già fatto. Non è bravo, quello lì allenando, l'altro era bravo, ma chi sono, a me il Baris Allegri, Allegri, beh, così, non va capace a fare allenatore. O Mancini c'è adesso, Antu, Mancini. L'hanno cambiato. Mancini ci sarà da tre anni, penso. Mancini è l'allenatore dell'Inter. Ha vinto l'Europeo, ma chi sa come un battlefield, sta un volato di base proprio. È un casino, vabbè, purtroppo. Adesso domenica c'è Inter-Juve, quando un casino, se vince la Juve la supera l'Inter. Ma l'Inter ha una partita in meno, ne deve recuperare una col Bologna in campionato. Ma lo scudetto mi sa non ce la fa a vincerlo. Ma non che le vince tutto, non deve perdere mancuna, né pareggiare. Forse, però devono perdere anche il Milan e il Napoli. Comunque piano piano la Juventus sta rosicchiando, da per come era messa male, adesso al quarto posto ha staccato pure l'Atalanta, speriamo bene, piano piano, adesso mi sa che ci sono altre 8 partite ancora, 3 per 8, 24, ci sono 24 punti, non sono molti, però se la tenterà la Juve. Sì, ma sicuramente domenica la supera l'Inter. L'Inter ha iniziato bene e poi si è persa anche troppo. Ancora c'è il QRM alto, Come ogni tanto sale QRM, 5, 3... questa c'è il treno, sta passando avanti il treno. Ah, duro duro. Eia. Vai, andiamo, c'è. Sì, ehi, vabbè, è il tempo, Come c'era questo, cos'era, spagnolo, cos'era, non lo so cos'era. L'ha chiamato Daniele, ma Daniele c'aveva 600 watt sotto. E l'ha risposto, so che mi sa che Daniele non l'ha sentito. Propagazione buona, dai, buona, così, Oh, dai, io vi lascio, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Anche io mi 10 minuti e poi guardo Cupa Secchione. E si sente domani mattina, va bene, se no io purtroppo di pomeriggio non ci sono. Avanti Carlo. Via, io già attacco domani mattina, tanto domani sono di riposo e tra le faccende di casa e tutto, già sono in cucina e quindi lascio attaccato, se fai chiamata già ci sono. Vabbè, no, io già ci sono da presto. Sì, ok, dai, vi saluto tutti, buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte Antonio, buonanotte. Sono col portatile, sono, dai, buonanotte, ciao ciao. Tiago 8 qua col portatile. Eppure funziona, è con l'antenna piccola. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Ah, ce l'hai in cucina il baracchino, Carlo? Sì, sì, l'ho messo lì perché, diciamo, dentro in salone a volte si guardano la TV, io ho la TV piccola qua, però già mi siedo e c'ho tutto, frigo, e se mi devo fare il caffè vicino c'ho la macchinetta del caffè, capito? Ascolta a me, e non è una camera per te, no, per farti una stazione radio? No, negativo, se no, se avessi avuto un posticino così, capito, a voglia, già me ne sarei preso di altre radio e per altre soddisfazioni. Purtroppo devo operare in questo modo, qua non ho molto spazio, Luca. Vabbè, comunque, basta che è una passione, cioè va bene. Allora io all'inizio lo stesso ce l'avevo in camera, ma scusa, in cucina. All'inizio ti parlo del 92, 91, se non mi ricordo, 93, boh, non mi ricordo, comunque quell'anno lì. Poi da lì me lo sono portato in cameretta. E niente, adesso ce l'ho già un bel po' di anni. No, non fai, lì non fa, poi è un casino, vabbè, adesso ora come ora rimango così, vediamo un po' sempre se la gente continua a entrare, perché sennò vabbè, a vendere poi cosa, mettere i printi, ti mangi i soldi, non è né radio né niente, rimangono lì e via, dai. Poi me lo devo sistemare bene bene bene, devo trovare un attimo e devo sistemare delle cose, faccio una cosa fatta bene. Se hai la possibilità, sì. No, a vendere no, Luca, perché bene o male qualcuno c'è sempre, dai, almeno dei vecchi, se che possiamo ci rimaniamo, quattro chiacchiere ogni tanto le possiamo fare, capito? Poi qualcuno si aggiungerà, come mi sono aggiunto io, diciamo, anche se non sono nuovo di queste parti, comunque qualcuno ogni tanto si fa risentire, anche dei vecchi. Beh, certo. Sì. Vabbè, io dico così, però vabbè, già va bene. Ma comunque non compro più niente. Mi c'ho questo amplificatore, l'ultimo acquisto e basta, non compro più niente, finito, basta così. Fatela sistemata e poi si vedrà più in là, secondo come va, che poi quest'antenna non va più, c'è una boomerang grande, cazzo, quella. Ho capito, io siccome non ho molto spazio e comunque già ho fatto, penso, un buon impianto, c'ho l'antenna nuova, quella che mi ha dato Claudio, che è nuova di zecca, il cavo me l'ho messo nuovo, l'RG213, quello Messier Paoloni, quello Plus 10, è ottimo, capito. La radio l'avevo presa nuova, adesso mi ho preso questo Rosmetro nuovo, mi ho preso il 747 e niente, mi fermo così per adesso. Poi avrei la possibilità di mettere una mensola vicino, eventualmente mettere una radio anche più grande, posso fare anche un'altra calata, mettere un'altra antenna, sul tetto ne posso mettere anche più di una, capito? Però per per adesso lascio tutto così, non voglio andare oltre, poi pian piano se mi capita qualche altra occasione vedo un po' se è il caso di mettere una mensolina, ce l'ho un altro spazio qua, capito, per mettere una radio più grande, però mi devo organizzare. Certo, poi mettere più antenne, vabbè, pure io non è un problema manco per me. Salgo quando voglio, che purtroppo le tegole sono quelle che sono. E così. Sono un po' messe malucce, infatti dovrei recuperare di quelle tegole se ne è troppo. Perché c'è qualcuno a rotta, non rotta da me, però le vorrei sostituire. Fortunatamente praticamente non passo sulle tegole, praticamente entro dal vano ascensore dove c'è una finestra, c'è una scala, salgo, apro e sono sul cordolo, e cammino sul cordolo e poi vado su un piano di calpestio dove non ci sono le tegole, perché c'è una parte centrale del tetto dove c'è la carta catramata, capite, ci sono i fogli di catrame, quindi cammino là sopra e non c'è nessun problema. E avrei anche la possibilità di metterne un'altra sempre sullo stesso palo di sostegno, magari mettendo un deviatore, magari una piccola di qualche altra frequenza, e magari mettere una calata con un filo più sottile, capito? Ma anche se ne metto un altro grosso passa. Capito.